bene, allora direi che iniziamo con questa serata. Anche è una bella consuetudine questa di incontrarci verso così all'inizio dell'estate, la fine della primavera, comunque con i primi caldi, con la professoressa Marta Cironi De Chiusole e tutto il suo gruppo vivacissimo e interessantissimo dell'autobiografia. Questo è il terzo volume che viene presentato qui in biblioteca e ringrazio quindi non solo la professoressa e il vostro gruppo, ma anche l'UPAD, con il quale in più occasioni abbiamo instaurato un buon rapporto di collaborazione, uniti dall'idea di creare sempre delle occasioni di conoscenza, di relazione, di incontro e anche di piacere nello scoprire nuove cose. Questa appunto è la serata dedicata all'autobiografia, che è una nuova, diciamo così, frontiera della letteratura, tutta da scoprire ma anche tutta da costruire, e qui i protagonisti siete voi, siamo noi, insomma chi ha voglia di sperimentare questo nuovo tipo di comunicazione. E sta dando anche molti frutti, perché anche attraverso l'autobiografia si vengono a scoprire parecchie cose, si aggiungono dei tasselli anche a un percorso storico, a una indagine storica. Abbiamo visto anche recentemente che semplicemente da un colloquio con una persona è nato poi un libro che racconta le vicende di un nostro concittadino di anni 95, che fino a qualche anno fa nessuno sapeva fosse l'unico reduce da cefalonia di Bolzano, ancora in vita, ancora lucido, ancora attivo. E una cosa che mi ha fatto particolarmente impressione ma anche piacere è stato scoprire come questa persona, nei suoi ricordi durissimi da ammettere, da riconoscere, non ha mai, ecco, diciamo che avevo detto una volta una cosa, che lui è veramente stato un resistente, perché ha resistito alla seduzione dell'odio. Lui non ha mai usato una parola cattiva nei confronti di queste situazioni. E forse l'autobiografia, quello che anche avete fatto voi in questo lungo percorso con Marta De Chiusole, che sicuramente è un faro positivo quindi non era possibile altrimenti, e anche leggendo i vostri racconti, le vostre testimonianze, emerge sempre una nota positiva, una grande carica che merita di essere lasciata fissata sulla carta scritta, oppure anche trasmessa poi con altre forme più anche diciamo che permettano più facilmente anche di entrare in contatto con altre generazioni, perché sono dei messaggi veramente interessanti che possono colpire chi li legge. Ecco, io vi ringrazio. Sulle sedie avete le cartoline nostre. Purtroppo abbiamo scoperto che i servizi postali ogni tanto tendono a consegnare in ritardo. Per evitare questo, o ve le mandiamo via mail, ma chi non avesse questa possibilità, nessun problema. Di solito sull'Alto Adige c'è un avviso nella giornata o qualche giorno prima, che così comunica gli appuntamenti anche della biblioteca, quindi, oppure se passate di qua trovate fuori il cartellone o venite a prendere. Mi dispiace, ma purtroppo è una cosa su cui non possiamo intervenire per risolverla. E inoltre ne approfitto per dire che ecco, è arrivato anche il nostro sindaco. Quelli di Bolzano hanno abbiamo anche uno sindaco. Non venire a salutarti, mi ha fatto un grosso piacere. Scusate, noi siamo legati da una amicizia. Non dire che cosa abbiamo fatto, ti prego. L'ho portata in canna in bicicletta in Piazza Valle. Quando era vietato, ero già sindaco. Ah, ero anche sindaco, bravo. E non c'erano le telecamere? No. Ma mi ha sfidato lei non credeva che sarei stato capace di farlo. Sapete com'è Eva, la mela, quelle cose lì. Dopo aver scoperto che Dio era nonneso, come mi ha raccontato l'altro giorno, perché ha detto, quando ha messo lì Adamo ed Eva, potevi far tu quel che volevi, tirando tu quel che mi pare, ma le saltare i pomi, eh? Bene, dai. Ecco. Ecco, allora grazie a tutti, grazie alla nostra ospite che ci accoglie sempre con affetto, con grandissima gentilezza, per cui ci sentiamo di ripetere qui il nostro salotto. Grazie al nostro sindaco, visto che l'aspettata è piacevolissima. Adesso mi fermo, però mi metto in fondo e aspetto anche a te. No, io non c'entro, difatti ho girato il cartello perché io non c'entro. Perché sono loro, grazie a tutto il pubblico, grazie soprattutto agli scrittori che hanno reso possibile un lavoro di questo genere un pomeriggio come questo. Grazie perché sono continuamente ossessiva, continuo a chiedere di scrivere, siete obbligati a fare anche i compiti dell'estate e vi prego di ricordarlo. Ho dato anche un paio di temi e guai se non li fate, perché altrimenti poi a ottobre avete i vostri problemi. Non vieni meno il tuo ruolo di insegnante. Anche noi facciamo i compiti durante l'estate, quindi non è che vi abbandoniamo perché non chiudiamo, stiamo diventando un po' ossessionanti, ma comunque... Abbiamo deciso di proseguire con qualche iniziativa nella la mattina, dalle 9 alle 10, dice Mede, in un orario un po' fresco, per cui ecco, poi faremo sapere tramite appunto le cartoline o così gli appuntamenti sul giornale, e poi spiegheremo anche come funziona il nostro sito. Così è quello che potete fare da casa. Perfetto. Col sito. Benissimo. Ecco. Alzo la mano come a scuola, professoressa, è un salto indietro. Proprio perché sei tu. Questa scena qui che vedete adesso, lei dietro una scrivania, e da questa si è ripetuta spesso negli anni dal 70 al 86. Vabbè, adesso non dico più è la mia ex professoressa, dico è la mia professoressa. È giusto. No? Colgo al volo l'idea del non raccontare quello. Scusate, per scrivere un libro, parlando di autobiografie, io e Marta potremmo chiamarlo, no? Comunque, scherzi a parte, sono io che ringrazio a nome del Lupa, anzi vi saluto da parte del nostro avvocato Gambara, dal nostro coordinatore generale e anche da parte della direttrice dottoressa Elena Radio. È un piacere essere qua, ci tenevo, l'avevo detto anche a Marta. Sono io che ringrazio la dottoressa Trevisan, sempre gentile e disponibile, e le faccio i complimenti per tutta questa serie di attività, mi scrive sempre, io purtroppo lavoro a Lupad, alle 18 spesso è difficile uscire, no, da lì, no? È il dramma di chi organizza che poi stenta a fare difficoltà. Si sa quando entrano, ma non si sa quando escono. Sì. Ecco, abbiamo sganato tutti l'orario delle 18, no? Sì. Comunque grazie, e complimenti anche per questa cosa che farete l'estate, al mattino, merita. E di voi posso dire che siete splendidi, io so che già da anni seguite questo progetto con Marta, nel quale credo molto anch'io, ognuno di noi scrive qualche volta anche un diario segreto, no? Delle pagine, però alla fine non si scrive perché questo diario rimanga nel cassetto. È segreto, a 15 anni lo si chiude anche con la chiavetta, vedo mia figlia, no? Beh, si vede che sa che sei però, curioso. Sì, però ne ha dato una copia al papà, no? Dice l'ha perdo io, tieni tu. No, io non c'ho guardato. Però si scrive qualcosa di segreto sempre, o comunque un diario di racconti, nella speranza che qualcuno un domani li legga, perché è la condivisione che ci fa sentire vivi. In un bel film, Viaggio in Inghilterra, con il grande Anthony Hopkins, che c'era il professore universitario, ma la parte anche di un grande scrittore inglese, diceva a un suo allievo, lo stuzzicava con questa proposta, scriviamo per sentire che non siamo soli, e forse è proprio così, per condividere, no? Quello che abbiamo dentro, perché se manca la condivisione non abbiamo nemmeno un senso di appartenenza e non ci spieghiamo chi siamo e che cosa facciamo qua. Quindi complimenti a voi che vi siete messi in gioco e vi siete raccontati, perché questa è memoria, e se non scriviamo la memoria non la possiamo trasmettere via computer o via carta. Io preferisco un po' la carta, perché così continuiamo a scrivere bene, no? E anche perché se dovesse essere un blackout, i computer non ci aiutano più. La carta e la mano sì, sempre, sono come la meccanica e l'elettronica, no? Ecco, va bene. E grazie a Marta, che ha il grandissimo merito di aver messo insieme il gruppo con tutta questa passione. Grazie a voi, grazie, grazie a loro. Mi accomodo anch'io. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Entriamo subito in medias res, allora. Cominciamo. Cangerosi, da prima, sì. Non vuoi cominciare? Dai, ti prego. Sei diventata bravissima. Dai, ti facciamo coraggio. Dai, ed è una deliziosa poesia scritta per la sorella. No, quella non l'ho portata. E vai a leggere un'altra. È lo stesso, ma era quello che volevamo. Ma comunque fanno quello, questo fa quelli che gli pare. Gentaglia, quella che amministro io. Gentaglia. L'avevo letta. Facciamo così. Una roba dell'altro mondo. Va bene, va bene. Fa quel che ti pare. Qualcosa di nuovo. Va bene? Tutto intorno è un sussurro. Nella pace mi trastullo, l'aria è calda d'azzurro, quieto l'ondeggiare del mare smeraldino, come il pulsare di un cuore bambino. Un melanconico ronzio prende l'anima mia, ricordi affiorano leggeri come ali di farfalla, vagano qua e là, riportando alla mia mente la tua grande umanità. Pensieri dolci, pensieri tristi, del tempo che fu, velano quei momenti felici della nostra gioventù, ma quel dolce tuo sorriso nel mio cuore, per sempre nel mio cuore rimarrà. Scusate. Bello. Intanto una, così ci sono dentro tutti, poi se avanza tempo dobbiamo tenere conto che non abbiamo i tempi dilatati del lupo. Sì, che possiamo fare come vogliamo. Rosalba Giustarini. Che sta bene adesso? Rosalba sta bene adesso. Sta bene con noi. Sta bene con voi. Dunque, un incidente. Un pomeriggio come un altro. Trascorso nella sede dell'UPAD, un pomeriggio come un altro, passato insieme a tante persone amiche. Poi all'improvviso l'imprevedibile, un colpo forte al mio mitorace sinistro, il crack crack delle ossa rotte e un volo sull'asfalto. Dolore, paura, un vago ricordo della polizia e dell'ambulanza, la corsa verso l'ospedale. Il semaforo verde, le strisce pedonali sulle quali mi trovavo, non erano bastate a salvarmi dalla distrazione di quella ragazza che guidava un po' troppo allegramente la sua macchina. Poteva andar peggio, dice mio figlio per consolarmi. Poteva andar meglio, rispondo io, che dopo quasi 2 mesi sono costretta a prendere antidolorifici e faccio una gran fatica a respirare. Della mia degenza in ospedale ricordo per motivi diversi 2 persone, un medico e Frau Anna, una mia compagna di stanza. Quando in occasione delle mie dimissioni chiesi al medico se poteva trattenermi ancora, perché vivendo da sola non mi sentivo in grado di badare a me stessa, la sua risposta fu piuttosto arrogante. Bastava un minimo di tatto per dirmi che tutto quello che si poteva fare era stato fatto e che purtroppo, come spesso capita, c'era un bisogno estremo di letti. Invece, con aria altezzosa, mi disse che anche lui alcune volte doveva arrangiarsi da solo. Che cosa ci vuole a mettere sul fornello una pillola d'acqua e a buttarci dentro un pugno di spaghetti? Mi disse guardandomi con aria di superiorità. Sul momento non risposi niente, ma quello che pensavo era: lei non ha 80 anni, non ha 3 costole rotte e non fa nessuna fatica a respirare per aver ricevuto un colpo così forte. Frau Anna invece era la dolcezza personificata, ormai novantenne, non era più tanto lucida e mi raccontava vari episodi della sua vita dimenticandosi di avermeli già detti numerose volte. Una vita difficile, con un figlio nato quando era molto giovane e non sposata, e la fatica di farlo crescere completamente da sola. Il racconto terminava ogni volta con un gran sorriso e con la frase: comunque mio figlio è stato ed è la cosa più bella della mia vita. Ricordo i suoi singhiozzi, nascosti sotto le coperte perché un'infermiera l'aveva brontolata. Quel rimprovero era giusto, in quanto si strappava dalla vena al lago della Flevo per poter andare in bagno e ogni volta erano costretti a bucarle di nuovo quel braccio scarno e pieno di ematomi. Il commento fra le lacrime era sempre lo stesso: non capisco perché in questo ospedale si vieta ad una paziente di andare in bagno. Ma che si è portato la lettrice ufficiale, perché altrimenti si agita e si commuove. La testimonianza mi ha dato anche la fotografia di essere stato all'università, quindi ho la prova provata che non mente. È mia figlia, di strane. L'università, ebbene sì, all'età di 80 anni sono andato all'università. È stato per un giorno solo, ma mi ha fatto un certo effetto. La cosa è successa così. Ho una nipote, Alice, che frequenta a Verona l'università nella specialità Scienza dell'Educazione. E nei vari corsi ce n'è uno di formazione degli adulti. La professoressa incaricata, parlando con gli alunni, ha chiesto loro se avessero voluto invitare qualche familiare a presenziare a una lezione sulla comunicazione, per eventualmente parlare con gli invitati, per conoscere i rapporti che intercorrono fra generazioni diverse e i modi con cui ciascuno si pone nei riguardi degli altri giovani, dei colleghi, amici, genitori o persone anziane. Alice, pensando al nonno, di cui aveva avuto modo di conoscere i racconti che aveva scritto per il corso di autobiografia, mi ha chiesto se fossi disposto a partecipare a questa lezione ed eventualmente leggere qualcuno di questi racconti. Ho acconsentito e così, il giorno stabilito, sono andato a Verona all'università. Per me, che per la prima volta entravo in questo ambiente, già l'impatto con la vasta aula, già quasi completa, è stato notevole. Il pensiero che forse avrei dovuto parlare della mia vita e delle mie esperienze a tutti quei ragazzi mi ha un po' spaventato, perché il parlare correttamente non è la mia specialità. L'inizio è stato comunque soft. La professoressa ha iniziato a parlare della comunicazione. Cos'è? Cosa si intende per comunicazione? I vari tipi? Diretta, indiretta, personale, mediata? Andando avanti, ha invitato gli alunni a intervenire con commenti o con casi personali, a cui qualche genitore presente ha risposto con la sua esperienza, ponendo a sua volta domande su come comportarsi per conservare o migliorare il rapporto con i figli. Un po' alla volta il discorso si è allargato e così due mamme e il sottoscritto sono stati invitati alla cattedra a parlare delle esperienze personali e a rispondere alle domande che sono venute da parecchi ragazzi. In questa fase, dopo essermi presentato, ho spiegato che l'origine dei miei iscritti era l'UPAD, dove si è creato un gruppo piacevole di persone che ogni 15 giorni si ritrovavano e amavano raccontarsela e ricordare episodi della loro vita di cui conservano vivo ricordo. Le tre ore dedicate a questi discorsi sono volate e la lezione si è conclusa con un arricchimento reciproco, come ho potuto notare nei commenti finali. Non capita spesso di avere una platea di giovani con cui parlare senza imbarazzi, che ti sta ad ascoltare e che fa poi le loro considerazioni in un clima di attenzione e di rispetto. Anche per me è stato piacevole e distruttivo. Piacevole per la nuova esperienza e distruttivo per aver sentito dalla voce dei giovani i sentimenti e i problemi che loro sentono e vivono e che non sempre riescono a comunicare agli adulti, che a loro volta non accettano o non riescono a capire i grandi cambiamenti che hanno cambiato la vita di tutti, in particolare dei loro figli. Bello. Gabriella. Lezioni di dialetto. Il dialetto è un importante bagaglio della cultura popolare da non perdere e da trasmettere ai posteri. La maggioranza degli italiani che vive in Alto Adige proviene da diverse regioni e porta con sé il suo dialetto d'origine. A questo proposito vi racconto una mia esperienza. Nella mia famiglia si parlava veneto. Ma quale veneto? Vi domanderete. Perché nel dialetto veneto dobbiamo distinguere tra padovano, veneziano, veronese, vicentino, il rovigoto, il trevigiano, eccetera. Nella mia famiglia si parlava il veneziano, da non confondere con il chioggiotto, che per fonetica è diverso, sebbene Chioggia è alla periferia di Venezia. La mamma era veneziana, di Venezia città, e ci teneva a sottolinearlo. Perciò noi bambini e ai nipoti parlava sempre il veneziano e si scusava sempre di questo suo parlare. I veneziani non sanno parlare correttamente l'italiano, non pronunciano le doppie, ad esempio mio nome è Gabriela. con l'aereo sola, con l'aereo sola. Sbagliano le congiunzioni, i verbi e così via. Ma in Italia, diceva la nonna, poche persone parlano correttamente l'italiano. E fin qui tutto bene, tranquillo. Quando un giorno una delle mie figlie si recò a trovare la nonna per una commissione. La nonna era indaffarata ai fornelli, aspettava con ansia il nonno che tornasse dal lavoro. Era in ritardo con il pranzo e preoccupata si fece aiutare dalla bambina. Per piacere, bambina, ti me dà il scuier? Imbarazzata la piccola, non capisce il termine e dice: cosa vuoi, nonna? E scuglier, e se, ne ha cassea di accredenza. Nonna, scusa, cos'è scuglier? Fantoina, tu mare, ma te ga insegna proprio niente. E scuglier, e se il cucchiaio, che secondo il mio modesto parere, e ga qualcosa a che far quella forma, e ga origine da scoda, qualcosa per dire a suso i liquidi, ti ga capio? Non lo sapevo, nonna, continua la piccola. E il piron, invece, è zia forchetta, che sempre secondo il mio modesto e umile parere, significa qualcosa che si infila in italiano. E il corteo, è zia il coltello, che ti può paragonare con qualcosa di ongo, come un corteo desente. Ti capisco, bambina mia? Tonona, quando è a parla, non vuol cascare a cicara al piateo, come si dice a Venezia. Cioè, non voglio far brutta figura. E se per questo motivo che a nonna te parla sempre in veneziano, è il dialetto più bello che sia sto mondo, piuttosto che di stupidare in lingua. Ti capisco, piccola mia? In quel momento entra il nonno. Ciao piccola, come te stai? E a casa tutti bene? Il nonno invece è padovano. La sua parlata è diversa, pronuncia le vocali molto più aperte. A rientro mia figlia commenta: sai mamma, oggi la nonna è tornata in cattedra, mi ha fatto lezioni di dialetto. Chini, tocca a te. Bella. Sì, sono deliziosi questi scritti. Sono andata alla biblioteca di Otrisarco. Sei a posto con tutto? Sì, sono a posto con tutto, ma neanche da via. Anche poi oggi, perché io sempre poi. No, perché intanto che legge, corregge, poi dice: ma finisco la prossima volta, adesso mi fermo. No, no. Stavolta è brava, posso. Guarda, ho messo anche l'intestazione. Ma non mi dire, ma sì, neanche guarda. Ma roba neanche da credere, succede qualcosa. Se fa mica piove, sì. Oggi bisogna dare l'ultima mano ai ricordi di guerra. È stata un'esperienza inconclusa e sottilmente dolorosa. Circa ora una curvatura edificante, come logico sia, fra chi è ancora qui a ricordare. E allora mi cimento in una triangolazione finale, piantando due chiodi su una mappa ideale, dall'Africa a Trapani, o anche viceversa, fissando ben teso lo spago tra lo zio Mondo, il fratello di mia mamma, che si fece 8 anni di guerra non stop, dalla guerra d'Africa tutta intera alla Seconda Guerra Mondiale e oltre, e dall'Africa su fino a mio padre, che concluse a Trapani, tenente di fanteria, la sua guerra di combattente e fu congedato tra il 43 e il 44. Per me, che ero nata alla fine della guerra, la storia di Trapani fu l'unica ad essere costantemente rammemorata in funzione di insegnamento di vita. In essa si riassumevano il non senso della guerra e l'istinto individuale verso la vita e la salvezza. A Trapani, mio padre, tenente di fanteria, doveva imbarcarsi per l'Africa, ma partiva anche il segretario di un comandante che rimaneva a terra. Chiesero se qualcuno sapeva scrivere a macchina ed era in grado di sostituirlo. Mio padre si offrì prontamente. Lui, per vero, nella prima giovinezza era stato tipografo, ma non aveva mai scritto a macchina. si esercitò tutta la notte, facendosi aprire la porta dell'ufficio del comandante da un compagno che sapeva dove veniva tenuta la chiave, rischiosamente per entrambi. L'indomani mio padre sapeva scrivere decentemente a macchina e fu accettato come segretario. Per quelli che partivano invece erano arrivati nuovi equipaggiamenti. C'erano anche gli scarponi, che forse non erano la miglior calzatura per affrontare il deserto. Non erano tuttavia molto pesanti. Avevano la suola visibilmente di cartone. Vero. Su quella nave, non presa, mi devo imbarcare ora io sulle tracce della storia dello Zio Mondo. La storia dello Zio Mondo ormai forse esorbita dallo spazio della vostra ampia e squisita pazienza. Rimarrà lì inconclusa ad ulteriore conferma della mia inettitudine compositiva? Ma no, un giorno o l'altro mi metto a scriverla e voi, nella vostra straordinaria cortesia, potrete ascoltarla fino alla fine. Per adesso ce n'è qui un'anticipazione, consolatevi, brevissima. Lo Zio Mondo all'anagrafe si chiamava Edmondo. Mio nonno, infatti, laico e fieramente socialista, per i suoi numerosi figli aveva accuratamente evitato i nomi dei santi, salvo che per l'ultima, mia mamma, che si chiamava Anna, un nome ebraico e cristiano. Chissà se qualcuno aveva pensato al Mondantes, ma lui fu subito chiamato solo Mondo, e forse fu così, nomen omen, che venne destinato a un lungo girovagare per il globo terracqueo. I figli maschi, socialisti e antifascisti come il padre, erano stati tutti renitenti alla leva, salvo l'ultimo, lui che dichiarò di non essere disposto a ingoiare chiodi e simili torture per evitare, come i suoi fratelli, il servizio militare. Lui era il più piccolo e accomodante, e l'Italia, anche nelle Romagne, si era nel tempo sempre più fascistizzata. Mio nonno, reiteratamente picchiato e poi licenziato dall'officina che dirigeva, era ormai gravemente malato. Lui non se la sentì di rischiare la pelle ammalandosi per anni per essere riformato, come avevano fatto i suoi fratelli maggiori. Così partì fiducioso per il suo servizio militare, cui poi si aggiunsero la guerra d'Africa e la seconda guerra mondiale. Proprio all'inizio, nel Veneto, si fece una fidanzata. Tornò a casa molto dopo la fine della guerra, dopo 8 anni di silenzio epistolare, e una volta ripreso un aspetto migliore e il suo lavoro di ebanista, tornò a cercare la fidanzata. Fin dall'inizio lei aveva scritto lettere affettuose a mia nonna, la futura suocera. Si sentiva una della famiglia, anche se non l'aveva mai vista. La chiamava mamma e scriveva come una che stesse per sposarsi. Lui invece mancò per 8 anni. Tornò a casa molto dopo la fine della guerra, dopo 8 anni di lontananza e silenzio epistolare ininterrotto. Una volta questo l'ho già letto. Si incontrarono. Va in Veneto, si incontrarono. Lei non era finito. Lei insistette nell'assicurarlo che lo avrebbe aspettato per qualunque tempo, se solo lui qualche volta avesse scritto, le avesse fatto avere qualche notizia. Lo aveva atteso per anni, poi nel silenzio perdurante lo aveva creduto morto e ora stava per sposarsi. Si sposava con un vecchio, lui riferì. Gli fu chiesto il perché del suo silenzio, ma lui non seppe rispondere. Poteva essere ormai l'estate del 53. Ero ospite da mia nonna nella casa dal grande orto di Lugo di Romagna. Avevo forse 8 anni. Un pomeriggio, quando tutti dormivano e mi aggiravo per casa torturando il gatto, lo Zio Mondo mi chiamò e mi fece salire con aria furtiva nella sua camera, al primo piano. Era molto buia, come un tempo si usava per tener fuori il caldo e la polvere della strada. Mi mostrò sul suo tavolino la fotografia di una ragazza coi capelli lunghi, arricciati a boccoli sulle spalle e grandi occhi sognanti, come le attrici di allora. Sorridente, dentro una cornice d'argento, luccicava nella penombra. Mi disse solo: era bellina, vero? Era blaina. Con qualcosa di ansioso nella voce, come se ci tenesse molto al mio giudizio. fu contento quando, ovviamente senza sforzo, risposi affermativamente. E poi mi disse solo con aria grave che era stata la sua fidanzata. Lo zio Mondo sorrideva anche lui. Aveva un sorriso affettuoso, ma indefinibile e lontano. Finalmente ti consegni al lavoro. Ti sono riuscita. Sempre, no, è vero. Faccio ammenda. Zanella, vedi tu? Adesso ho messo male la panna. Oh, lo sistemiamo. Ah, lo sistema. Lui è bravo. Ah, sì, dice, sono io che ci ho messo sotto il libro per evitare di tenerlo per la mano. Cosa devo leggere? Quel che ti pare a te. Se vuoi un italiano nel dialetto. Dai, così. Allora, già che la settimana scorsa ha preso la strada del cielo la Elisabeth, quella che abitava sotto il ponte Talvera. Ecco, riprendo quella breve poesia dei mendicanti. Arrivano in città al mattino, assieme al mercato del sabato. Mercenari della questua sfoderano sguardi imploranti, esibiscono infermità fasulle, tendono mani supplichevoli. Attenti a non farsi pizzicare, si aggirano tra la gente per tutta la giornata. Quando vengono suonate e smontate le bancarelle, sono già sul furgone del caporale, diretti verso una città che li ha cacciati, intenti a spartire il frutto della menzogna. I poveri, quelli che una vita rovescia ha costretto ad essere tali, sono vestiti di dignità. Però viene da una dialetta. Dopo basta però, sì. Dopo basta, sì. Perché il nostro fa rap anche, recita poesia, rap, è una roba neanche da credere. Non ti avrei neanche capito. No. Allora, è il mio testamento. E questa è ripresa da una poesia di un poeta rivano, ma solo come partenza, poi il resto è mio. Venire al dì che morirò dai brazzi, e gli anni sulla schiena sarà tanti, fuori di casa andrò coi pei in avanti, ma non potrò lasciarvi ori e palazzi. Ne non posso lasciarvi dei tesori, che a lavorare una vita non guadagna. Vedo in eredità la mia montagna, di quel che mi lasciai i miei genitori. Ve lascio la montagna dei silenzi, coi sentieri che corre in mezzo ai prai, tra le vacche, le pecore e i cavalli, e l'acqua di cristallo dentro i brinzi. Ve lascio la montagna dei colori, blu de genziana, nero de moretina, velluto bianco di una stella alpina, pitturà dal più grande dei pittori. Ve lascio la montagna dei saori, delle luganiche entro di Stavel, con la polenta tratta sul tabiel e la sgnappa, regina dei liquori. Non posso trovare niente, ve lascio tutto, e il sol che su dal cielo tutto indora, la luna che al mattino si scolora, e il tempo bel, la rosa, e il tempo brutto. Solo un ricordo torna di ovoria, gli occhi dolci e il sorriso di Natusa, che non ho mai potuto farmi sposa, così la gavo lui e così sia. Bellissimo. Grazie. Garrone. Sono bravi i miei scrittori. Bravissimi. Oh, prima cosa mi scuso per la mia dizione che non è né alla Gasman né a quella di Arnoldo Poà. Dai, l'intorno, nei paraggi. Sì. Ricordi della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 giugno 1940, come dimenticare quel giorno? Ero da poco arrivato a Sartrio, piccolo paese sul confine svizzero, in provincia di Varese. Mi accingevo a trascorrere le mie vacanze estive nella grande dimora dei miei nonni paterni. Quel pomeriggio mi stavo avviando alla piazza del paese, erano circa le 18, quando, passando davanti al circolo culturale, udì la voce stentorea di Mussolini che l'altoparlante a pieno volume diffondeva.

Con papà si era in contatto tramite il contrabbando, tramite lettere che potevano avere servendoci di coloro che fino a qualche tempo esercitavano il contrabbando di sigarette. Il ricordo di Milano in quei giorni era triste e cupo, colmo di nostalgia. Giravano ragazzini che avevano la mia età o poco più, in divisa grigio-verde, con camicie nere e basco, armati con moschetto o mitra, e nell'imbrunire vidi al Parco Sempione un gruppetto di tali personaggi che con le armi rivolte verso il cielo sparavano allegramente, gridando a squarciagola e ridendo a più non posso. Io devo dire onestamente che passando al lato di questa ciurmaglia ero molto impaurito. Arrivamo al 25 aprile, il giorno della liberazione, e dalla gioia per la fine di quel periodo si videro scene di violenza e di vendette atroci da parte di coloro che avevano subito a loro volta i torti o vere e proprie vessazioni. Rammento un codazzo di persone che trascinavano una persona legata per le mani e la stavano portando all'arena per essere fucilata. Uno spettacolo tragico. Nei giardinetti vicino alla mia scuola, alle delle elementari, vidi un gruppo di partigiani che portavano via due corpi, un uomo ed una donna. Lui era Osvaldo Valenti, lei Luisa Ferida. Due attori che avevano seguito gli ultimi dettami della Repubblica di Salò. Valenti era infatti un ufficiale della decima massa e come tale subì un giudizio sommario. Vi fu poi quella macabra scena di corpi appesi a testa giù in piazzale Loreto, dove una folla oceanica inneggiava tale spettacolo. Fra l'altro io ebbi la triste occasione di vedere scaricare dall'autocarro tutti i corpi di codeste persone. Mi trovavo col nonno al cimitero monumentale per un funerale e avevano ovviamente la rigidità della morte, i vestiti di volto erano cosparsi di sangue rappreso. Le tribolazioni, le ansie, le paure della guerra erano finite. Col tempo si sarebbero dimenticati, in parte. Io attendevo il rientro di mio padre, infatti verso la fine di luglio rientrò, ci riunimmo, ora ci attendeva quella che fu chiamata ricostruzione. Bravo. Alessandro, vuoi leggere? Beh, io parlo di Bolzano. Bene. È andato via il sindaco? No, ah, c'è. Certo. No, bene. Va bene. È cattiva. C'è qualcosa come lui? No proprio, ma insomma se le ascolta. Allora sono due, perché sono un po' collegate, se capirete. Camminando una notte in città. Bolzano, stanotte sei bella, sussurra un vecchio clochard, rubando note e parole a una vecchia canzone. Una sottile pioggia di luci zampilla sull'ampia distesa dei prati che fanno da specchio alle stelle, e il respiro del fiume è come un sospiro di pace. Questa notte, generosa di luce, esalta l'austera eleganza di antichi palazzi e la maestosità di sculture superbe, mentre il vento soffia discreto sul ponte che unisce i due volti della città, testimoni di una storia non ancora compiuta, compresa, condivisa. Interrompe il suo canto il clochard e cammina al mio fianco. Ha sul volto il mesto sorriso di un poeta incompreso. Chissà a chi appartiene questa città, chiedo a lui, al vento e alle stelle, dando voce a un pensiero improvviso. Ed egli risponde: a chi la sa amare, a chi la sa meritare. Bella. Questa è un po' più cattiva, eh? Echi della mia città felice. Assomiglia. Assomiglia a me? Vabbè, insomma. No, dai. Mostravi serena il volto della tua storia, prima che i bisturi senza memoria interrompessero l'armonia dei ricordi, cancellando emblemi del passato custoditi senza protervia dalla saggezza del tempo. Solenni, immutabili, impotenti, i monti assistono agli insulti della modernità. Cosa resterà di te, Bolzano, se mai nessuno fermerà la stolta mano di chi viola il passato? A noi, orfani di immagini tangibili, apparirai quasi sconosciuta, e quando la mente ci tradirà, vedremo dissolversi piano piano nella triste nebbia dell'oblio, preziosi ricordi della nostra vita. Bravo. Mi aspettivi? No, ma voglio dire, ma fai una casa, no? Sì, ma chi sapeva che c'era, sì, quanti come me. Sì. Una risa come me. Attenta che t'ammazzi. Buona da Maria. Sì, vero, mi piace quello che scrive. Le mie poesiole sono molto succinte. Brava. Così gliene facciamo fare. Perché sono più di una. Le nostre mani, già da bambini camminavamo insieme mano nella mano, così anche da adolescenti e poi da amanti e da sposi. E ancora oggi che abbiamo i capelli bianchi, le nostre mani si cercano, si intrecciano, si stringono e dicono ciò che le parole non sanno esprimere. Brava! Ho udito il fruscio delle fronde, ho udito lo sciabordio del mare, ho udito il sibilo del vento, ho udito il fragore del tuono, ho udito pure in lontananza il tuo richiamo. Bella. Bella. Questa è dedicata a mia figlia, Flavia. Risvegliata dalla narcose, chiesi: cos'è? Una bimba è bella come il sole, rispose felice il novello padre. Me la misero fra le braccia solo il giorno seguente. La guardai, la mirai e la baciai. Ero diventata mamma. Bene. Brava. Brava. La Maria gira da sta parte che sono nati i figli nei figli. Giusto, i figli nei figli. Ciao, grazie di essere venuto. Complimenti. Vero che sono bravi? Sono bravi, ma non sono mica solo bravi perché ci sei tu, sono bravi. No, sono bravi di loro. Sono bravi di loro. Grazie. Ciao, grazie di essere venuto. Sono molto commosso a sentire la mia prof che compone. Che compone? È bravissima. Ma credo mai che è bravissima. Ha sopportato me per 5 anni. Ah già. È quello che dice anche la tua menestrina. Esatto. Che ti ricorda continuamente. Come sta? Bene, grazie, sì, sì. Buona salute. Te la saluto volentierissimo. Grazie. Ciao, grazie di essere venuto. Bravo, Che pilliti. No, un leggi quella che ti pare a te. Qui io stabilisco un ordine, poi è gente che fa quel che gli pare. No, ho fatto una domanda. No, no, tu hai la domanda, tanto c'è già la risposta. Avete sempre ragione voi. Non è una favola. Narrava che ritornò dalla guerra. Era la voce amica di mio padre. Avrebbe dovuto dire c'era una volta. Invece combattevamo il nemico in Albania. Di sofferenze erano le parole e altre felici per il suo ritorno. Parlava ancora con la mente altrove. Molti dei nostri rimasti sulla nuda terra, il ferito con ancora nel petto la paura. Il soldato con forza è avanzato, per la sconfitta patria afflitto ritornato, dai riportate della loro sorte nulla. I deboli in patria attesero il combattente, moglie, madre, coraggio per i figli. La paura, il patire la fame, corpi indifesi, il continuo migrare, il nemico senza opposizione anche il poco portava via. Con armi l'alleato liberò la nazione. Case distrutte, fu colpa della guerra. E io nacqui dopo che lei ha avuto fine. Il bimbo chiedeva, cos'è la guerra? Pensava gioco dell'infanzia. Invece, sofferenze per i rimasti in vita e una parte della storia prese come favola. Da militare in pace sui muri vidi dove il vecchio ha scritto: chi muore per la patria è vissuto assai. E adesso Gianni Galassini. Sì, è diventato sempre più bravo. Ciao. Oh, state diventando bravissimi, vero che sono bravi? Una cosa incredibile. Abbiamo cominciato in sordina ed è diventata una cosa piacevole, lo stare insieme è proprio una cosa bella. È finita in sordone. Eh? È finita in sordone. Sì. Ma vi immaginate che alle 8 di mattina mi tira giù dal letto a raccontarmi barzellettacce, cambia voce, mi fa delle domande incredibili. Per telefono, beh, ovvio. Non avevi detto niente della tua storia col sindaco, però. No, ma perché non posso dire certe cose. È troppo intimo. Questa gente intorno. La prima volta che vedo Franco, vedrai. No, cioè stai zitto, fammi una carità. Quando toccherà a me, le cose dovranno essere fatte proprio bene. Non accetterò che ci sia gente disordinata, distratta o chiacchierona, né chi viene solo perché non può farne a meno, o per poter ritrovare gli amici, e che si frega contento le mani pensando che la sorte ha scelto me, anche se ero più giovane di lui. E sbuffa e si lamenta che avrebbe avuto altro da fare e piange solo per farsi vedere, mentre prima per me non ha avuto un briciolo di rispetto. Non vorrò montagne di fiori che passano in un attimo e non durano il tempo di una lacrima, non scritte altisonanti del tipo "non ti dimenticheremo mai", che mi fanno sempre sospettare l'esatto contrario. Non vorrò sermoni che tutti ascolteranno pensando che non ero poi così padre e marito esemplare, e nemmeno forse lavoratore indefesso. Quando toccherà a me, voglio che sia una bella giornata, né troppo fredda né troppo calda, e nemmeno dovrà piovere, altrimenti qualcuno penserà che l'ho fatto apposta per fargli dispetto. Non vorrò bande, fanfare, picchetti d'onore, per non incasinare il traffico e per non dare fastidio. Anzi, non vorrò proprio nessuno, e nemmeno vorrò un funerale, l'estremo saluto per sciogliere il gelo, per colmare il vuoto, perché spero che chi veramente mi ama possa pensare che forse ha sognato, perché in realtà io vivo ed esisto solamente nella sua anima. Sì. Facciamo leggere una piccolina che è proprio bravo, poi dopo vi leggo io una cosina. Allora, sì, hai fatto un po' di casino di fatto, prova io a tenere le tue poesie. Facciamo la vita sprecata. Sì, dai. Una vita sprecata. Già prima del tramonto mi accorsi di essere solo. Non vi era nessuno da poter guardare negli occhi. La lunga notte mi portò a cercare la giusta compagna dentro una bottiglia. Passò troppo tempo per scoprire che anche lei era vuota e senza speranza. Vi rubo un attimo. Era vuota. È una lettera non spedita. Io ho un privilegio grande ed è quello di avervi incontrato. Si mette, ah, si mette, si. Ah, ecco, brava. Può mettermi seduta anch'io qua? Sì, sì, okay. Ma me lo mangio di solito perché mi arriva secco in bocca sta roba. Io ho un privilegio grande ed è quello di avervi incontrati, di poter passare qualche ora con voi, di potervi ascoltare, di essere ascoltata. Il vostro è un dono impagabile. Attraverso i vostri scritti mi avete messo e mettete a parte dei vostri pensieri, del vostro mondo passato, dei sogni per il futuro, delle gioie e dei dolori che inevitabilmente ci accompagnano. Con serenità e fiducia mi avete permesso di entrare a far parte delle vostre vite. Le avete condivise e tutti noi, per merito vostro, abbiamo imparato a conoscerci, a rispettare la diversità, a sentire il piacere e il bisogno di stare insieme. Grazie per tutto questo e per la serenità che mi regalate. Grazie per aver saputo creare un clima che va al di là di ogni convenzionalismo. Grazie per avermi confermato qualcosa in cui ho sempre creduto, e cioè che gli affetti, quelli veri, hanno dimora in non luogo e che per questo abitano dovunque, anche e soprattutto qui con voi. Grazie di tutto. Spero che abbiate passato un bel pomeriggio con noi, che abbiate imparato a conoscere i nostri scrittori. La nostra società è aperta a tutti quelli che hanno un ricordo e il piacere di comunicarlo. Grazie soprattutto alla dottoressa Trevisan, che ci ospita con tanta carineria e sempre con grande affetto, e questo è diventato il nostro secondo salotto. Grazie di tutto a tutti. Grazie. Grazie a tutti.